Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Ma non è vero, ma come? Infattamente, se tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Se tu non mi voti, intuculati e tutta la famiglia. Ho cominciato questa cosa di leader del movimento, è stata una roba che io ho sempre odiato i leader, ho sempre odiato i movimenti politici, mi trovo a essere considerato il leader di un movimento importante, politico, ma io ve lo devo dire qua, io scherzavo, ho capito? E questa qua. Questi giornalisti che hanno parlato benissimo negli editoriali di lui, tutti quelli editorialisti, lui li aveva querelati tutti, perché diciamocelo veramente sul serio, è stato attaccato vilmente da chiunque, cosa c'era dietro, cosa non c'era dietro. C'era un uomo strapitoso con una famiglia normale. Ci dobbiamo sfogare! Una volta si facevano le battute, diritto di satira, non ce l'ho più, politico, non ho nessuna carica politica, quindi non ho l'immunità parlamentare e basta una battuta che lo prendo un tuo culo, come dite voi. Vabbè, iniziamo così con un Beppe Grillo che secondo i giornali noi non l'abbiamo trovato, ma comunque ha detto... Casaleggio l'hanno ucciso alcuni articoli di giornale. Oggi è tutto un profluvio di commenti a dire ma come è possibile arrivare a dire tanto. Ma signori, buongiorno alle 6:32 minuti. Allora la notizia è questa. Siete pronti al Parlamento? Me l'ha riferita ieri una fonte fidatissima che frequenta la Camera. E succede questo, ve lo dico perché magari vi siete fermati in questo momento in un bar a fare colazione. Sappiate che ieri questa fonte molto fidata va alla Camera alla buvette a fare colazione. Prende una spremuta d'arancia, si avvicina alla cassa, dice: buongiorno, quant'è? Niente. Come niente? È gratis. Come è gratis? Quant'è? È gratis. Oggi offre la regione Sicilia. Beh, il tarocco nel senso di la regione Sicilia offre, perché insomma per favorire la diffusione delle arance, la colazione alla buvette, ma solo ieri. Se siete però a Roma, nei paraggi, affollatevi, andate alla Camera, bussate, aprite i portoni e chiedete anche voi una colazione gratis, una spremuta gratis. Ieri alla buvette di Montecitorio, spremuta offerta ovviamente alla mia fonte fidatissima, ha detto a quel punto ne ho prese due o tre perché la vitamina C fa bene. E io pago. A proposito, la Camera è decaduto Giancarlo Galan. Altra notizia, la Camera ha votato, Giancarlo Galan non è più deputato, ve lo ricordate Galan? Licenziato! Mai nessuno ci guadagnerà. E poi, altra notizia che ho trovato. Chissà perché queste notizie più importanti, quella della Sicilia, non c'è proprio sui giornali. Le altre sono trafiletti. Altra notizia fondamentale, è libero in maniera definitiva Massimo Tartaglia. Ve lo ricordate? Quello che ha scagliato Nespoli. Nespoli fa il gesto. Boom! Il gesto è del lancio della statuetta del Duomo. Non c'è niente da ridere. Attaccare! Sulla faccia di Silvio Berlusconi, Massimo Tartaglia, che era in libertà vigilata, è libero. Allora, senti che silenzio. apri il Parlamento, va. Sono le 6:35 minuti. Per un caffè, quindi se mai ci vediamo. E oggi devo salutare con affetto, con amore, con tenerezza, con abbracci, con toccacciamenti, con insomma, vabbè, le due amori qui del Parlamento. Comincio da Aurorina Lussana. Come stai? Buongiorno Milan, buongiorno. Ciao. A cosa te sta... e ai tuoi amici di Radio 24. Cosa stai ascoltando? Mamma mia. C'ho su Classical Music, è una sorta di best of di Strauss. Dal music, il Music Verein di Vienna, spettacolare. Strauss sarebbe bellissimo, sì. Sì, sì, un po' di musica austriaca. Eccola lì, la musica austriaca, ho già capito, porcaccia la miseria. Devo subito chiamare Veronica Gentili, capito? Questa mi ascolta la musica austriaca, no? Perché lei metterebbe il filo spinato al Brennero, metterebbe... Devo ascoltare la musica filo islamica che piace a te, eh? Ma non esiste la musica islamica. Ma io non ho la musica. Basterebbe yam. Forza. Dai, cantala sul valzer di Strauss. Forza, no. Dai, ti prego, è? Ancora. Yam. Ma yam. Ma sei collegato col Brennero. Yam. È Veronica Gentili. È una che ha fermato il Brennero, chi è? No, è Veronica Gentili. È Veronica Gentili. Ma l'ha fermato il Brennero, Mi hanno trovata di qua, gli austriaci non mi fanno muovere, io volevo andare a sciare. Senti, puoi cantare Aurora, oh, se vuoi, Puoi cantare Aurora, meglio se vuoi. Music Verein. Meglio la musica viennese, la musica tutta regale, così, tutta piena di barriere, imperiale. Di fili spinati, imperiale. Adesso tu dimmi cosa c'è di bello nel mettere un controllo, un muro, ci perdiamo una vagonata di miliardi, tu lo sai che perdiamo una vagonata di miliardi con questi controlli. Sì, è un bel danno. Che bello, evviva. Sì, è un bel danno. È il simbolo del fallimento dell'Europa. Eccolo là. È così, ognuno per sé, Dio per tutti. Abbiamo scelto l'invasione afroasiatica e gli austriaci in qualche modo cercano di, in qualche modo giustamente, di legittimarsi e di rievocare la loro sovranità. Controllando i confini. Ti piace questo valzer? Bellissimo. Milan, è così? Adesso Milan, deve parlare Veronica, mettimi i fuori di cuore. Giustamente adesso. Milan, probabilmente tu non hai niente da difendere, quindi non devi mettere confini. Se uno ha qualcosa da difendere, ma cosa devo? Guarda, mi metto lo scolapasta in testa, ti giuro, e oggi blindo i miei figli, mi metto lì davanti al primo che arriva. Ma scherzi, ma tu c'hai già i muri di filo spinato fuori di casa, sennò ci sono le donne che si buttano dentro impazzite, no? Ma senti, guarda, ma lo sappiamo, guarda, se è così. Se volevi un insulto alle 6:38 del mattino, ci sei vicina, cara. No, dai. Ma no, non so, Veronica, tu senti che queste invasioni arrivano e bisogna difendere qualcosa? Cos'hai da difendere tu, Veronica? Ti senti? Sicuramente non credo. Cosa io da difendere non lo so, questa è una domanda troppo difficile a quest'ora. Però penso che questo veramente è il fallimento dell'Europa, non nel senso che gli austriaci poverini si devono difendere. Credo che sia una doppia dimostrazione del fallimento dell'Europa. Cioè, non ci sono delle politiche serie che aiutino a gestire il fenomeno dell'immigrazione. Per quanto il governo, secondo me, ha avanzato una proposta che avrebbe un suo senso questa volta, se realmente si riuscì questo Migration Compact, e se si riuscisse a portarlo avanti, la stessa Lega è teoricamente favorevole, ho capito in questi giorni parlando con amici di Aurora. Con amici di Aurora, parli con dei leghisti. Perché, esatto, perché il principio di fondo è il famoso aiutali a casa loro, no? Aiutateli a casa loro, quindi si tratterebbe indebitandoci con altri europei. Non cominciamo a dire cose più grandi di noi, noi abbiamo parlato di creare delle obbligazioni europee che aiuterebbero nel nostro caso, perché sì, paesi come il nostro e come la Grecia sono quelli che spendono più soldi per questa ragione. Quindi avere invece delle obbligazioni europee che sono a favore dell'Africa e della gestione del fenomeno migratorio ci aiuterebbe. Ci sì, ma questo è un ricattone. Cioè, Aurora, tu non capisci che è un ricattone. Vienna dice o collaborate, cioè se collaborate noi ci fermiamo. Cioè ci sta, è un ricattone. Allora, siccome l'Europa non è unita, ognuno faccia per sé, e noi cosa dovremmo fare? Mettere delle grandi barriere sul Mediterraneo, che uno parte con col gommone e trova un muro. Però, scusami un attimo, Mina, se tu abiti in un condominio, no? E decidiamo che noi condomini lasciamo aperta la porta dei nostri appartamenti, è perché sotto c'è il portiere che controlla chi entra e chi esce, perché fra di noi ci fidiamo, c'è un accordo. Se il portiere fa entrare tutti, noi siamo, cioè non vengono tutelati i confini esterni dell'Europa. Però Milan, allora scusa, oggi è saltato l'Eurogruppo, nuovo scontro con Atene, cioè non siamo capaci di avere solidarietà interna fra noi europei, perché l'Europa ha lasciato crepare i greci, e di nuovo oggi Schäuble dice colloqui senza progressi, non ci interessa niente. Austerità, austerità, sempre. Sì, che poi questa volta allora, è gravissima. No, vabbè, quindi che dobbiamo fare? Licenziamo il portiere, cioè l'Italia. Ma no, il portiere dovrebbe essere Frontex, quelli che dovevano tutelare le frontiere esterne. Se adesso nel condominio entra di tutto di più, ma non sai, o meglio, non sai nemmeno chi entra, non c'è più controllo. Sì. E quindi Vienna fa questa cos'è, una barriera cos'è, di 4 metri. Sì, ma cioè, facendo così Vienna si protegge dall'arrivo di chissà chi. Cioè, non, ma non si protegge da niente. Si protegge, sì, ragazzi, si protegge. Perché si questa protegge? Qui è un'immagine anche spot. Nel mondo si sa che in Austria non ci entra. Lo diceva è la dottrina austriaca. È un ricattone. Questi sono i nostri confini presidiati. Andate in altri paesi, sì, ma non funziona così, perché non ci può essere una sospensione arbitraria di Schengen perché gli austriaci posso capire è tutto arbitrario, perché tanto arbitri non ce ne sono. Posso capire che è una questione di immagine, cioè dire contano anche le immagini, no? Questo mondo quindi è l'immagine di dire ragazzi, qui in Austria se l'Europa non fa niente noi facciamo qualcosa. Poi magari Veronica, funziona anche così. Questo è il modello dell'Ungheria, cioè come Orban, come tutta una serie di paesi. Grande mito per Aurora Lussana, grande mito per Aurora Lussana. Mamma mia. Un individuo proprio andrebbe. Devo dire che guarda, quando ho conosciuto Strache, vi posso, anni fa al congresso di Torino. Chi è che hai conosciuto? Strache. Il capo dell'espione in Austria. Sì. Quello di Hofer. Gran partito. Parte un bell'uomo preparato. Non lo so. Questo. Guardami subito. No, preparato, colto, insomma. Di la verità, quando hai conosciuto Strache? Anche con questo Strache, te lo dico, ma cosa proprio vuol dire? Vabbè, ti genera, fammi vedere la faccia di Strache. Anche Wilders, che voglio dire non è così affascinante, però insomma fammi vedere la faccia di Strache. No, parliamo di cose serie. Fammi, aspetta, a che ora interviene Salvini stamattina dopo lo scoop di ieri? Salvini ieri è intervenuto qui a Radio 24. Sì, ha fatto un bello scoop oggi su tutti i giornali. Quasi meglio di Radio Padania. Guardalo qua, Strache. Guarda Veronica. Era da me. Veronica, vedi? Guarda che secondo me Strache ti piace. Dici che è tipo mio? Mamma mia, occhioni azzurri, bello manzone. Una serenità matrimoniale in casa, me la immagino. Sì, no, volano vabbè, muri. Ovviamente preferisco i Brianzoli. Ti mette subito un muro tra la camera da letto subito, e il divano. No, a me sicuro mi tiene fuori, conoscendo il mio buon carattere, no, sicuramente. Fa subito il muro, ti caccia di casa. Strache, vabbè, ma quando hai conosciuto Strache, cara Aurora, cosa hai pensato? Ha vacillato. Lo intervistai ai tempi della Padania, una personalità molto molto affascinante, assolutamente. Preferisco sempre l'uomo Brianzolo, ovviamente, perché è un austriaco, figurati, sai, sì, che sì. Io non ho questo mito che hai tu xenofilo, che non è che, ecco, preferisco gli autoctoni. Sono xenofilo, va bene, sono xenofilo. Un po' sì, però tu... ieri sei stato bravo, quasi meglio di Radio Padania, bravo. Va bene, adesso tra poco lo faremo, lo faremo. Che complimento che ti ha fatto, lo faremo meglio sentire. Di Radio Padania. Quasi meglio, devo studiare ancora per superare quelli di Radio Padania, ma insomma mi sto applicando. Studia. Mi sto applicando. Cara Veronica, però ti voglio far sentire un mito per te a Roma, lì un uomo che si aggira, sì. E lo so che quando lo vedi lo abbracci, lo tocchi, anche lo toccacci, Bertolaso, un uomo che, un caso umano, bisogna dire, Bertolaso, l'ultima che ha fatto è questa, ragazzi, no vabbè, io sostengo da mesi che stia facendo apposta. Scusami. Per farsi cacciare. Io vorrei rivendicare il fatto che la cattiveria sul fatto di oggi è mia, sì. E ho scritto: Bertolaso sarebbe pronto a fare una staffetta con Marchini, l'assessore, sì. Con Raggi e Giachetti, sì. Però anche un reality con la Meloni, un weekend, sì. Con Fassina e un'esterna con Storace, sì, perché esatto. Con questo livello qua. No, è questo livello qui, anzi no, sentiamo prima il traffico, poi ripartiamo da Bertolaso, vi faccio sentire Salvini. Sì, perché devo uscire a portare l'umido, posso? Sì. Vai pure, non inciampare, okay. Mi raccomando, è che a Cantù qua giovedì mattina mi passa l'umido, mi sono dimenticata. Siccome ricordiamo sei incinta, muoviti cautamente, muoviti piano. Ma scusa, ma poi tuo marito ti fa buttare l'umido a quest'ora? Ma È a Roma a lavorare. L'onorevole Molteni è a Roma a lavorare. 8 gradi a Cantù, va. Mi metto un attimo la giacca, sì, e sì, è arrivato l'inverno finalmente al nord. Vai a buttare l'umido, mentre tu, Veronica, dici che, perché questo bisogna raccontarlo. Veronica Gentili, insieme, sì. Ad altre persone, altri amici, tra cui anche Rossella Brescia, facendomi causare un'invidia totale, passa le serate a fare il karaoke tra amici, è vero? Diciamo che abbiamo fatto un po' tardi ieri. Non così. Si poteva dire? Qual è la tua canzone preferita? Io ti temo molto. Che domanda difficile. Qual è la canzone sulla quale dai il meglio di te? Mi piace molto Cara di Dalla. Cara di Dalla, bene, stai lì, traffico. A Milano, mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Ciao Milan. Mi domando una cosa, ma come mai quando veniva accusato o indagato Silvio le sentenze neanche servivano, era già condannato a priori? Ora che tocca al PD bisogna attendere le sentenze. Ma Milan, si sentono questi del PD quando cercano di difendere a spada tratta la propria parte? Vergognosi. Uè Milan, basta Aurora, lasciali lì a Cantù. Non dice niente, non dice mai niente di intelligente. Niente, niente, niente. Speriamo che te la sono a casa, Milan. Speriamo che te la sono a casa. Oh, Milan Maria, e stavo sfogliando il giornale, fissano Fiorentino. Ma perché un altro anno ti scrivi anche te abbandando sotto le stelle? Te e la Veronica Gentili. Fate cappotto, ve lo dico io. Ciao. Non lo questa so. È fatta, te lo dico, ha avuto l'idea dell'anno, inizia a prepararti perché noi l'anno prossimo andiamo a ballare. Me lo immagino, proprio per ma questo. Ma come me lo immagino? Ma chi te l'ha detto? Scusami, Aurora, non dire le cose poi subito, no? Adesso improvvisamente è diventato il meglio tacco della Bastiglia. Tu. Senti un po', com'è l'umido? Era pieno il cassonetto? Aurora si è rientrata? Scusami, ma secondo te a Cantù? Brianza Profonda, provincia Comasca, Lombardo-Veneto, ci sono i cassonetti, raccolta differenziata spinta. No, intendevo lì il cassonetto, anche a Milano, se è per questo. Solo a Roma buttano tutto come degli incivili, tutto insieme ancora. Eccoci, cominciamo. Volevo sapere, lì il cassettino dell'umido. Il cassettino. È la civiltà, la raccolta. Quello color marrone, era a posto, era... Scusami Aurora, come ci vedi a me e Milan ballando sotto le stelle? Allora, te c'hai proprio un primo piano televisivo, te vai bene. Milan lo vedo più in radio. Dici, cioè tu non lo vedi a ballare, Ti ringrazio, è un editoriale che non ha bisogno di aggiungere nulla. Milan lo vedo Milan in TV lo vedo meglio in radio. Lei regge il primo piano alla grande. Io non so se posso reggere a tutti questi complimenti. Stamattina ma chi fatto è il fratello musulmano lì che ha chiamato per dirmi... È uno che evidentemente non apprezza i tuoi commenti, insomma. fratello musulmano. Il fratello musulmano. Preparati a questa sigla, cara Veronica, ballando con le stelle, sotto le stelle, come quella minchia si pensa chiama. Alla felicità che faremmo lì in regia se andassimo a ballando sotto le stelle. Tutti i primi piani su di te, vabbè. Certo. Pensa, esatto, stai dietro. Allora, Bertolaso, sentitelo qui, un uomo, un caso umano, secondo me uno che fa apposta. Qualora vincesse, che so, Giachetti o Marchini o la Raggi, le proponesse un assessorato dicendo lavori pubblici, eccetera, eccetera, lei accetterebbe il nome di questo spirito di coalizione? Ma i ruoli degli assessori sono anche quelli nel contesto politico attuale, certo. dei ruoli politici. Potrei sicuramente dare il mio modestissimo contributo, certo. se me lo chiedono, per affrontare alcune questioni di carattere tecnico. Vabbè, non è che proprio ha detto farei l'assessore, potrei, è stato un po', fatto un signore, po'. Signore, perdonali perché non sanno quello che fanno. Vabbè, meno male che ieri c'era Salvini, cara Aurora, c'era Salvini qui e ci ha detto lo scoppone. Ha spiegato tutto, ha spiegato il perché di quello che sta succedendo a Roma. Lo so. Più che altro io li vedo male con l'unità nel centrodestra, perché Salvini secondo me ha anche ragione, perché questa il fatto che ci sia un passo del Nazareno che va avanti... subdolamente sotto traccia. Sì, è chiaro ed evidente su Roma, è evidente con Bertolaso. Peccato però che loro sono alleati in tantissime città. Sì, basta vedere Parigi. Più che altro dice chissà perché Salvini si è accorto a 40 anni che Berlusconi ha un conflitto di interessi, forse. Comunque, insomma, ieri Salvini così ci ha detto: fare la guerra totale, un presidente del Consiglio che ha in mano il potere di scegliere se quanto far pagare o far guadagnare le tue aziende non possa lasciare completamente libero di scegliere nessuno. Renzi in qualche modo ha il modo al governo per ricattare le aziende di Berlusconi. Mi sembra evidente. Insomma, capito Aurora, mi sembra evidente. È così, intanto Alibaba si prende il Milan. È vero. Beh, questo è messo nel modo più carino, che sa, Berlusconi è ricattabile, altrimenti possiamo dire che Berlusconi può essere in qualche modo favorito, insomma, che ci può essere uno scambio di reciproche cortesie senza necessariamente parlare di ricattabilità e che quindi si è deciso di mantenersi amici anche senza dichiararlo. Come si era fatto col patto del Nazareno. E qual migliore occasione che tenere Bertolaso lì, signori, potrebbe essere una soluzione. Vabbè, comunque questa è fantapolitica. Dobbiamo ricalarci nella realtà, perché qui c'è il contest che continua, cara Aurora. Come va, tutto bene? Ah sì, tutto bene. Io potrò parlare di Bertolaso, visto che sono dimmi. Dimmi, cosa ne pensi di Bertolaso? No, appunto, dico... Ma no, dai, non dire nulla. Me lo dici, ce lo dici la prossima volta. No, perché c'è il contest sui nomi. Finire in galera al bastone. No. A parte che se una è incinta, forse non va neanche, non lo so. Vabbè, no, va in galera, come no. Non lo so. Dipende da cosa dici. Ah, io sono, lo sai, Milan ormai mi conosci, io sono reati d'opinione, basta. Ah, no, non dire nulla, dai. Non vogliamo averti sulla coscienza. Non vogliamo portarti le arance della Sicilia. Ma offerte. Che mese sei, Aurora? Sto entrando nel settimo. Cavolo. E ride, contenta. E ormai allora il contest si avvicina, il nome della figlia di Aurora Lussana. Ecco. I nostri ascoltatori pensano così, attenzione, La figlia di Aurora Lussani, chiamiamola Bessie, come l'asfaltatrice del film Cars. La figlia di Aurora Lussana, io la chiamerei Donna Genzina. Donna Genzina. Un bellissimo nome per la tua bambina potrebbe essere Glenda. Ciao. Potresti chiamarla Ariana. Lussana, tua figlia la devi chiamare Libera Padania da Atalanta. Beh, questa non è male, Veronica. Come la chiameresti? Come la chiameremo? Ieri c'era un suggerimento di un ascoltatore su Twitter che diceva Frontiera. Mi sembra molto frontiera, bello. Frontiera, guarda, è bellissimo. Anche un bel nome, eh? Anche Barriera. Potrebbe essere meglio di Frontiera. Vabbè, tanto quando avrà 20 anni si chiameranno tutte Sumaya, Abdel. Lei si distinguerà chiamandosi Frontiera. Magari sì, perché si convertirà all'Islam, che ne sai. Anche,